giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Mortale della strada Osopo nella notte, ha perso la vita un giovane di 21 anni finito contro un albero con la sua vettura. Dopo il 25 novembre cala la percentuale dello sconto offerta dal superbonus, che passa dal 110 al 90%, corsa contro il tempo per mantenere le agevolazioni. Un 33enne toscano residente in Salento, indagato dalla polizia postale di Trieste per aver bloccato la seduta online del 15 febbraio scorso del Consiglio Comunale. Napoli-Udinese finisce 3-2, rimonta sfiorata nel finale. Per i bianconeri segnano Nestorowski e Samardžić, Sottili comunque soddisfatto. In Serie C vince il Pordenone, che si installa in solitaria in vetta alla classifica, pareggia la Triestina con il Renate. Per il basket, Cividale ieri vittoriosa in casa con Next Nardò. Nel pomeriggio in campo l'APU Udine in trasferta sul parquet della Staff Mantova. Alle 8:31 minuti e 20 secondi di domenica 13 novembre, un cordiale buongiorno e buona domenica da Daniele Lettigi e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto il tempo, cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 8, Trieste 12 gradi e 5 decimi, vento da nord-est a 21 km orari con raffiche che hanno raggiunto gli 85 km all'ora, Udine 10 gradi e 5 decimi, Gorizia 12 gradi e mezzo, Pordenone 8 gradi e 5 decimi, Tolmezzo 7 gradi, Forni di Sopra 4, Piancavallo 3 gradi e mezzo, Sappada e Tarvisio 2 gradi, in quota sull'Usare sul Monte Zoncolan 0 gradi, sulla costa Lignano 14 gradi e Grado 13 e mezzo. Veniamo ora alle previsioni. Per oggi, al mattino su tutta la regione, cielo da sereno a poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità, in particolare sulla fascia orientale, dove in serata saranno possibili delle piogge. Soffierà bora, a tratti sostenuta su Carso e Trieste, moderata sulla pianura orientale. In apertura la cronaca nera. Un giovane di 21 anni, Luca Mercante, residente a Osopo, ha perso la vita nelle prime ore di oggi a seguito di un incidente stradale accaduto poco lontano da casa in via alle Volontari della Libertà. Erano le 3:30. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti per rilievi viabilità, il ragazzo ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è uscito di strada andando a schiantarsi contro un albero. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemone, l'elisoccorso atterrato nella piazzola di Osopo. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione del personale sanitario, si è dovuto decretare la morte sul posto. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gemone per la messa in sicurezza del mezzo e a supporto del personale sanitario. Si attende ancora l'ufficialità, ma pare che il bonus 110% per l'efficientamento energetico abbia i giorni contati. Sarà utilizzabile infatti fino al 25 novembre, poi il rimborso sarà del 90%. Difficile che quanti non hanno ancora avviato le progettazioni e le relative pratiche riusciranno a fare tutto entro il 25. A meno di cambiamenti al decreto aiuti quater, ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 25 novembre sarà la data spartiacque per il superbonus. Chi è già andato avanti rimane nel regime del 110%. Per gli altri si passa al 90%. Il discrimine è aver presentato a quella data la comunicazione d'inizio lavori, la CILAS. Difficile però scatti una corsa contro il tempo. Per la CILAS servono verifiche amministrative, in comune, termotecniche ed architettoniche. Saranno verosimilmente accelerabili solo le pratiche in cui quasi tutto è già stato svolto. Impossibile inoltre convocare assemblee di condominio in pochi giorni. Lucio Barbiero, presidente del Collegio dei Geometri di Udine. Potrebbero conseguire anche dei contenziosi laddove vi siano già stati firmati degli impegni contrattuali. In seno alla maggioranza, Forza Italia ha già annunciato che chiederà un'estensione della data limite, almeno fino alla fine del 2022. Esasperati gli addetti ai lavori dal 18° cambio in corsa del superbonus, calcolano i geometri. A farne le spese potrebbero essere i condomini delle aree più periferiche, dove c'è meno disponibilità economica a coprire quel 20% di sconto fiscale tagliato, ma più bisogno di interventi di efficientamento energetico. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche in regione si moltiplicano gli attacchi informatici, tanto che la polizia postale sta rinforzando l'organico. Tra gli ultimi quello da Autovie Venete, mentre c'è un indagato per l'hackeraggio dello scorso febbraio al Consiglio Comunale di Trieste. Sempre più lavoro per la polizia postale anche in Friuli Venezia Giulia. A livello nazionale gli attacchi informatici sono aumentati di 60 volte in 10 anni. È per questo che si sta procedendo a un rafforzamento dell'organico. L'ultima violazione che ci riguarda è avvenuta ai danni della società autostradale Autovie Venete nei giorni scorsi. Come si legge sul sito, le problematiche stanno avendo un impatto critico sui sistemi informatici aziendali. Il portale InfoViaggiando, per esempio, ancora non funzionava nel pomeriggio, impossibile vedere le webcam. Nessuna ripercussione in autostrada, invece. Da Autovie fanno sapere che non si hanno indicazioni di una possibile fuoriuscita di dati, a differenza di quanto avvenuto in estate al sito del comune di Gorizia, attaccato da un noto gruppo di criminali, Lockbit 3.0, che, non ricevendo il riscatto richiesto, ha pubblicato i dati rubati sul dark web, compresi quelli sensibili. Di natura completamente diversa l'attacco al Consiglio Comunale di Trieste dello scorso febbraio ad opera del gruppo Novax Vivi, noto per le sue accuse diffamatorie contro coloro che hanno sostenuto l'importanza dei vaccini per contrastare la pandemia, definiti nazisti. Deliri ripetuti durante la seduta online di quel consiglio che fu sospesa per un'ora. Adesso sappiamo che per quella vicenda c'è almeno un indagato, un toscano di 33 anni residente in Salento. A casa sua materiale collegato al collettivo Vivi, trovato durante una perquisizione simile a quello sequestrato in altre operazioni. Reclutava attivisti per azioni dimostrative come quella al Consiglio Comunale. Tutto avveniva su Telegram. Credeva di essere anonimo, invece no. Manuela De Giorgi, dirigente della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia. In rete la garanzia dell'anonimato non esiste e sebbene l'indagato utilizzasse tecniche di anonimizzazione, la Polizia Postale è riuscita a ricostruire le tracce digitali dell'uomo, identificando così l'autore del reato. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale ha organizzato ieri al Teatro Giovanni da Udine la 18ª edizione della Fiera del Lavoro. Sentiamo com'è andata. Giovani in coda per un colloquio praticamente ad ogni stand, senza contare le interviste online. Siamo alla 18ª Fiera del Lavoro, organizzata dall'Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il padrone di casa, Marco Sartor. 81 aziende, 890 posti di lavoro e la grande novità è che per la prima volta abbiamo qui in Friuli 5 aziende straniere, in particolare danesi e austriache, che vengono a selezionare ragazzi friulani. Ci avviciniamo al banchetto dei centri per l'impiego governativi danesi. Cercano anche specialisti in professioni mediche, tra i più introvabili anche in regione. In Danimarca, spiegano, lo stipendio d'ingresso è di 100.000 euro annuali lordi. L'interesse è sempre stato piuttosto alto, specialmente per i neolaureati, e in Italia, a volte, è difficile ricevere quella prima offerta di lavoro, mentre in Danimarca le compagnie sono disposte ad offrire un contratto anche a chi non si è ancora laureato. Giulia di Campoformido, dottoranda in ingegneria biomedica a Trieste, si avvicina a chiedere informazioni. Vorrebbe continuare a fare ricerca. Come tipologia di contratto da subito sono comunque contratti a prezzo pieno, non tirocini, non stage, quindi un'altra considerazione. Una delle domande più frequenti oggi è se è possibile lavorare in remoto. Io ero interessata al tirocinio. Poi, a dire la verità, mi piacerebbe tornare in Italia. Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana che ha più difficoltà a reperire manodopera. Di cosa c'è bisogno? Chiediamo a due ragazzi. Di sicurezza, di certezza, che secondo me non ce ne sono molte. C'è necessità di aggiornare, secondo me, i percorsi di studio in linea con le richieste delle aziende. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Aumentato nei primi 9 mesi dell'anno il numero di persone che si sono rivolte al centro di ascolto della Caritas, tra loro tanti ultracinquantenni che hanno perso il lavoro e pensionati che non arrivano a fine mese. Sentiamo. La povertà energetica minaccia il benessere dei cittadini e lascia sempre più indietro chi vive in condizioni di disagio economico. È l'allarme lanciato dalla Caritas in occasione della 6ª giornata mondiale dei poveri. Nel 2022 sono aumentati i nuclei familiari che chiedono aiuto per pagare il gas, la luce e il riscaldamento. Da gennaio ad oggi la Caritas di Trieste ha erogato 37.896 euro per pagare le bollette di persone in difficoltà. È uno dei dati diffusi dall'organizzazione della diocesi triestina sulle attività dell'ultimo anno. Oltre 5.000 le persone aiutate attraverso i vari servizi, tra residenti e richiedenti protezione internazionale. Aumentati rispetto al 2021, in particolare gli accessi al centro di ascolto Sergio Peschier, un aumento dovuto in vasta parte al flusso di profughi dalla guerra in Ucraina. Gli l'inflazione, le guerre, ma anche la precarietà del lavoro dietro le nuove povertà. Tra gli assistiti dalla Caritas, molti hanno più di 55 anni. Persone che non riescono a rientrare nel mercato del lavoro in modo stabile, oppure che ne sono usciti, ma la pensione non gli consente di condurre una vita dignitosa, spiega il rapporto. E molti, 850 sui 5.000 totali, sono anche minorenni. Povertà minorile che è strettamente connessa alla povertà educativa e alla lontananza dalle possibilità di formazione. Tra i minori residenti supportati dal centro, il 74% ha meno di 14 anni e il 43% include bambini da 0 a 4 anni. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 8.40 siamo allo sport con il calcio. Terza sconfitta in campionato per l'Udinese, che a Napoli va sotto di 3 gol, ma poi sfiora la rimonta con le reti di Nestorowski e Samardžić. I rimpianti del tecnico dei friulani Andrea Sottil sono soprattutto per il primo gol subito da Osimhen, che ha poi permesso alla squadra capolista di segnare ancora in contropiede. Sentiamo. Il rammarico è che il Napoli, se ti deve far gol, ti deve far gol secondo me in un'altra maniera, quindi... secondo me il primo gol troppo facile, mi ha fatto saltare Osimhen con una palla che non era molto intesa, no? Molto, molto veloce, era abbastanza leggibile, e la preventiva che l'avevamo fatta bene, poi lasciamo uscire Osimhen col colpo di tacco e vanno dall'altra parte. Poi la grande qualità del Napoli si è vista anche oggi, peccato perché poi possiamo secondo me riaprire subito la partita. Era una grande occasione di Zibue davanti alla porta, clamorosa, e invece la sbagliamo, loro in contropiede fanno il terzo, e poi un'altra grande prova di maturità e di mentalità, soprattutto di non volerla perdere, 3-2. Poi non è semplice andare a pareggiare, però voglio dire, dispiace perché portiamo a casa 0 punti, però secondo me abbiamo fatto una buona partita. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie C larga vittoria per il Pordenone, che ieri sera si è imposto a Piacenza per 3-0 con gol di Bassoli e Dubicaz e l'autorete di Masetti. Con questa vittoria i neroverdi salgono al primo posto in classifica con 26 punti davanti al Renate, secondo con 24, e proprio con il Renate aveva pareggiato per 1-1 nel pomeriggio la Triestina. Vantaggio l'abbardato con Paganini e fine primo tempo i lombardi pareggiano nella seconda frazione con Maestrello. Triestina che rimane al 18° posto con 11 punti ancora in zona retrocessione. In Serie D il Chiarlin Smiuzzane affronta in casa il Campo d'Arsego, Tor Viscosa invece in trasferta a Chioggia, inizio delle partite alle 14.30. Basket per la Serie D A2, ieri sera la Gesteco Cividale ha battuto la Next Nardò in casa per 63-60, vittoria arrivata nel finale in modo sofferto, miglior marcatore per Cividale Battistini con 18 punti. Nel pomeriggio alle 17 scenderà in campo l'AP Udine in trasferta sul parquet della Staff Modena Mantova. Sempre per il basket, nella 2 femminile, la Delser Up Women di Udine ha battuto Carugate 81-47. Vittoria anche per Futurosa Trieste su Bolzano per 65-52. E siamo alla pallavolo. Nella 2 maschile, la Tinet Prata ha vinto 3-2 in casa con il Grottazzolina. Nella A2 donne, il CDA Talmassonso gioca la Tisana contro Marsala alle 17. Trasferta per l'Itas Martignacco a Messina, inizio alle 15.30. Pallanuoto, niente da fare ancora una volta per Trieste. Nella 4ª giornata di andata del campionato di Serie A1 maschile, alla Bruno Bianchi, gli alabardati sono stati superati per 12-10 dal Savona, che si conferma bestia nera della formazione guidata da coach Bettini. Quella di ieri sera è infatti la 5ª sconfitta di fila contro i Liguri. E siamo al tennis tavolo, secondo oro per la friulana Giada Rossi ai campionati mondiali paralimpici di tennis tavolo a Granada in Spagna. La pongista di Poincico di Zoppola ha vinto la finale nel singolo valido per i titoli di classe 2, battendo per 3-1 la coreana Seo Su-yeon, campionessa uscente. Per Rossi si tratta di uno storico triplete dopo la conquista dell'oro nel doppio femminile e dell'argento nel doppio misto. E siamo alla rassegna stampa. Sotto una fotonotizia dedicata agli sviluppi della guerra in Ucraina, il titolo principale del Piccolo di Trieste è dedicato alla manovra d'autunno della regione. 30 milioni in finanziaria per i mutui casa. Il fondo regionale coprirà le domande fino al 2023. In prima pagina c'è spazio poi per due richiami sui funerali a Roma dell'ex AD di Fincantieri Giuseppe Bono e sull'Università di Trieste che continua a crescere con 4.700 nuovi iscritti. La notizia sui numeri dell'Ateneo apre anche le pagine della cronaca cittadina, dove trova spazio anche la denuncia dell'hacker Novax che a febbraio aveva bloccato il collegamento streaming del Consiglio Comunale. Con una grande fotonotizia che ritrae il palco della Fiera del Lavoro di Udine, di cui vi abbiamo appena riferito, oggi il Messaggero Veneto di Udine titola sulle scadenze del super bonus e di tutte le altre agevolazioni previste dal governo con l'ultimo decreto. Subito sotto foto e titolo sull'Udinese che ha perso ma ha fatto ugualmente paura al Napoli. Nella colonna di destra un richiamo ad un'indagine della Polfer che ha denunciato tre giovani friulani per aver messo degli ostacoli sui binari del treno. A piedi pagina la notizia dell'imprenditrice friulana che pulirà il campo base sull'Everest. Pronto soccorso, letti in corridoio, invece il titolo principale dell'edizione udinese del Gazzettino, che si occupa anche della partita di Mantova dell'Old Wild West di Udine e di Michela Battistone, medaglia d'argento in Coppa del Mondo di scherma ad Algeri. La regione stanzia 1 milione di euro per il parcheggio Bipiano, ulteriore finanziamento per dare la spinta definitiva alla realizzazione dell'opera. E questa è la notizia con cui apre l'edizione di Gorizia del Piccolo. Sempre in prima pagina un richiamo alla festa per i 60 anni della scuola Battisti di Monfalcone. Le novità sul parcheggio sono anche l'apertura della cronaca di Gorizia, in cui si spiega che l'esplosione dei costi delle materie prime costringe a rinforzare la posta di bilancio. La nuova struttura avrà 225 posti auto, metà dei quali gratuiti. La cronaca di Monfalcone dedica invece il titolo più importante alle calamità naturali. La Protezione Civile preallerta e informa i cittadini con le app. Con l'applicazione Jarvis si potranno seguire sul cellulare l'arrivo di situazioni di criticità e sapere come comportarsi. Pronto soccorso, letti in corridoio, il titolo principale anche dell'edizione pordenonese del Gazzettino, che nel sommario aggiunge che a Pordenone al posto di lavoro dei 24 lavoratori ce ne sono solo 17, che a Udine c'è riattesa per l'arrivo dei medici a gettone. La fotonotizia di centropagina è dedicata ai Ramari, che con 3 gol di ieri sono in vetta alla classifica di Serie C. Cronaca nelle colonne di sinistra, con ladri incappucciati in azione sacile, 4 gli assalti. Potrebbe trattarsi della banda che colpito anche a Marsure e ad Aviano. La colonna di destra un richiamo ai temi del lavoro con i faccia a faccia tra aziende aspiranti dipendenti a Udine e a Porcia ha convocato un tavolo tecnico per risolvere il problema degli odori molesti in zona. A piedi pagina il caso della cornacchia molesta a Pordenone che la sindaco vorrebbe catturare. Gli ambientalisti l'hanno già portato in tribunale invece. Prosegue anche oggi in piazza Lavariano la festa dell'oca e del vin novello, giunta quest'anno alla sua 25esima edizione e che celebra con una mostra fotografica dei 5 lustri trascorsi. Ci saranno, oltre alla cucina a base d'oca e agli stand del vino novello, anche il mercatino agroalimentare con degustazioni dei prodotti. Speciale piazzetta con gli amici della Carinzia e del mercatino toscano. Seconda giornata della festa della Pitina a Tramonti di Sopra, oggi in programma 13 appuntamenti tra degustazioni, incontri, show cooking e laboratori dedicati ai bambini. Per le vie del paese continuerà la mostra mercato delle eccellenze enogastronomiche, mentre nella cucina della festa 10 cuochi dell'alleanza di Slow Food del territorio d'Italia ed Europa si riuniranno per esaltare la Pitina attraverso piatti inediti e accostamenti inusuali. Seconda e ultima giornata oggi per il Trieste Tattoo Expo 2022, il salone internazionale dedicato al mondo dei tatuaggi all'ippodromo di Montebello. Tra gli eventi in programma, alle 11.30 la performance di Angelica Vasta, alle 17.30 un'esibizione con Alistair Dance All Star California Palestra Trieste, alle 19 burlesque performance con Cleo Viper e alle 20 le premiazioni del contest per i migliori tatuaggi. Dopo aver ispirato un film da 4 premi Oscar, il romanzo A Spasso con Daisy dà vita a una commedia dedicata e divertente che affronta con la chiave dell'umorismo il tema del razzismo negli Stati Uniti del secondo dopoguerra. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine oggi alle 18 per la rassegna Teatro Insieme con Milena Vukotic nel ruolo della deliziosa protagonista, una maestra in pensione dal carattere decisamente particolare. Prosegue oggi il programma di concerti delle mattinate musicali internazionali dell'Orchestra Ferruccio Busoni di Trieste. Il terzo appuntamento vedrà l'esibizione del violista Simonide Bracconi, prima viola del Teatro La Scala di Milano, su musiche di Antonio Vivaldi e dello stesso Bracconi. Il concerto, dedicato alle vittime della pandemia, inizierà alle 11 nell'auditorium del Museo Rivoltella. La lotta delle donne in Iran, tema caldo negli ultimi mesi al centro dell'incontro Le ragazze di Teheran, durante il quale i giornalisti Enzo D'Antone e Fabiana Martini dialogheranno con la reporter e scrittrice Frayan Sabahi. L'incontro, organizzato nell'ambito del Festival Pequod Itinerari di Lettura e Giornalismo, inizia alle 11 al Teatro Miela di Trieste. La musica klezmer è quella nata nelle comunità ebraiche che abitavano fin dal XVI secolo nell'est Europa. La parola klezmer deriva infatti dall'ebraico klizemer e significa strumento da suonare. A questo particolare genere è dedicata la serata Klezmer Story, in cui si esibirà il gruppo The New Original Klezmer Ensemble. L'appuntamento parte della rassegna Culto Musica 2022 e alla Sinagoga di Trieste alle 18. Alle 8:50:34, questa era la nostra ultima notizia, collaborato in redazione Laura Sarasini, per la parte tecnica Federico Comar, da Daniele Letti, Germando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata, lasciandovi alla nostra trasmissione di agricoltura, Vita nei Campi. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.